giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Benvenuta MSC, ma non si chiuda per questo la porta ad Ansaldo Energia. I sindacati commentano l'impegno dell'armatore Gianluigi Aponte di acquisire lo stabilimento Varzila di San Dorligo e attendono il vertice convocato per il 20 marzo al Ministero delle Imprese. I sindacati chiedono anche la salvaguardia degli attuali livelli salariali e contrattuali. A Udine è in aumento la microcriminalità, lo dicono i dati della prefettura. Dal 2018 al 2022 le estorsioni sono aumentate del 125%, le percosse del 43%, le minacce del 45%, le lesioni dolose del 21%. Prima la pandemia e poi, con la crisi climatica, il colpo di grazia alla società che ad Arnoldstein gestisce gli impianti sciistici. È fallita. Non se la passa tanto meglio Kranjska Gora, che chiude anticipatamente la stagione per carenza di neve. Ingresso gratuito ai musei comunali di Trieste a tutte le donne la giornata dell'8 marzo. Una delle iniziative annunciate stamattina dall'amministrazione, diversi gli incontri nelle scuole. Assemblee studentesche addio. Al liceo Petrarca di Trieste ne hanno annullato una per mancanza di partecipanti. Quello che dalla metà degli anni 70 è stato un luogo di esercizio al confronto e al rispetto delle opinioni degli altri appare in crisi, come molti altri strumenti di democrazia diretta. Un solista dei Berliner Philharmoniker e due specialisti assoluti di musica barocca insieme sulle note di Johann Sebastian Bach ieri sera al Verdi di Trieste. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. All'indomani dell'incontro al Ministero con MSC e in vista del prossimo vertice allargato alle parti sociali in programma il 20 marzo, i sindacati commentano la decisione della società armatrice italo-elvetica di Gianluigi Aponte di acquisire lo stabilimento Varzila di Bagnoli della Rosandra. I sindacati dovranno attendere l'incontro del tavolo del 20 marzo per conoscere dettagli della proposta di MSC per l'acquisto dello stabilimento di Varzila. Si parlerà anche del passaggio dei 300 lavoratori in esubero coperti dagli ammortizzatori sociali fino a giugno. Lo stesso fondatore di MSC, Gianluigi Aponte, ha rivelato che l'intenzione è quella di realizzare carri ferroviari. L'obiettivo è proseguire nella strategia di diversificazione del gruppo, che diventa sempre più un operatore logistico a tutto tondo. In questo contesto è fondamentale il treno. Sul resto poco trapela. È sicuro però che MSC ha avanzato una serie di richieste a cui dovranno dare risposte regione e ministeri. Tra queste ci sarebbero la piena applicazione dei benefici del punto franco e l'estensione del collegamento ferroviario che si ferma a qualche centinaio di metri nell'area denominata Frieste, una delle intuizioni del presidente dimissionario del porto Zeno D'Agostino. I sindacati si aspettano il mantenimento del contratto dei metalmeccanici e gli stessi livelli salariali raggiunti dalle maestranze. Alessandro Gavagnin della FIMCISL. Ci auguriamo anche che venga mantenuto il livello salariale, l'occupazione, ma anche le competenze, perché si è sempre parlato di strategicità del sito di Bagnoli, ma anche di mantenere le competenze che c'hanno all'interno. E quindi mi auguro che il prodotto che venga fatto qua a Bagnoli adesso mantenga questi requisiti. Allo stesso tempo l'auspicio è che non si abbandoni il progetto di Ansaldo Energia. Antonio Rodà della Wilmwil. Quello che noi chiediamo è che venga mantenuta una missione strategica di quell'area, sia attraverso quella che sarà l'operazione di MSC, ma anche noi riteniamo con la presenza anche di Ansaldo, che può dare un valore aggiunto a quell'area e caratterizzarla come volano di sviluppo locale e nazionale dal punto di vista industriale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I numeri lo confermano, a Udine i reati sono in aumento, secondo dati della prefettura nel 2022 ne sono stati registrati 300 in più del 2018, una crescita del 7%. Sicurezza reale e percepita. Dopo i diversi episodi di microcriminalità dell'ultimo fine settimana, i numeri forniti dalla prefettura di Udine confermano la percezione di insicurezza denunciata da diversi cittadini, dal centro ai quartieri più periferici come San Domenico. Dopo gli anni del Covid, nel 2022, ultimo anno per il quale il dato è assodato, i delitti sono cresciuti un po' ovunque rispetto al pre-pandemia. Ma rispetto al 2018, se nel territorio dell'ex provincia di Udine i reati sono calati in totale del 4%, nel capoluogo sono invece aumentati del 7%. In città, rispetto alla provincia, il tasso di delitti per 100.000 abitanti è quasi doppio. In crescita, rispetto al dato di 6 anni fa, lesioni dolose, più 21%, percosse, più 43%, minacce, più 45%. Tipologia di delitti, invece, sostanzialmente invariati nel loro numero fuori dal capoluogo. In generale, in tutta Italia, i reati, si prendono gli omicidi ad esempio, sono in diminuzione strutturale da 30 anni a questa parte e l'Istat conferma che i centri metropolitani catalizzino più reati della provincia. Lo chiama effetto calamita dei centri urbani il professor Ernesto Savona, direttore del centro Transcrime della Cattolica di Milano. In città, infatti, l'interazione tra persone è maggiore. Colpisce, aggiunge, il maggior tasso di femminicidi invece in provincia, segno che le culture di tipo patriarcale siano più prevalenti nei centri più piccoli. Nei dati forniti dalla prefettura di Udine, in parallelo, si vede come l'unico dato in controtendenza sia proprio quello delle violenze sessuali, più 20% in provincia, meno 4% in città. In corsa a Udine il periodico Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. All'ordine del giorno le misure di contrasto al caporalato, ma non è escluso che si parli anche del dato, ancora provvisorio, dei delitti denunciati in città nel 2023. Dalle prime analisi emergerebbe una crescita dei cosiddetti reati predatori. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è discusso di energia stamattina durante la seduta della quarta commissione del Consiglio regionale, tema centrale la moltiplicazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli. Tutelare i terreni agricoli di fronte alla proliferazione del fotovoltaico è la richiesta che le associazioni di categoria degli agricoltori Coldiretti e CIA in testa hanno portato in quarta commissione consiliare regionale. Siamo in una regione in cui la parte agricola è importante, ha sottolineato il presidente regionale Coldiretti Martin Figeli. Questi impianti dovrebbero essere innanzitutto realizzati sulle coperture delle nostre aziende, ha continuato, evidenziando fra l'altro i timori per filiere come quelle del Montasio e del San Daniele. Sono in itinere le linee guida del Ministero, ha aggiunto il direttore Cesare Magalini, ma anche la regione deve farsi carico della tutela dei terreni agricoli. Pur non mettendo in discussione progresso, scienze e futuro energetico di questo paese, ha evidenziato invece Franco Clementin, presidente Friuli Venezia Giulia della CIA, siamo fortemente critici sul modo in cui si stanno affrontando questi problemi. Se questo sa da fare, lo si faccia con oculatezza e nei posti con meno impatto possibile. Si possono usare territori marginali, cave, caserme dismesse. L'individuazione delle aree deve del resto rispondere a precisi criteri, ha chiarito Eros Miani per l'Associazione Italia Solare, evidenziando come il Friuli Venezia Giulia sia una regione caratterizzata da un elevato consumo elettrico a causa della presenza di aziende particolarmente energivore. Il focus per identificare le aree idonee, ha sottolineato, è dove ci sono le infrastrutture, che è anche dove ci sono i consumatori industriali che hanno bisogno di questo tipo di energia rinnovabile e a basso costo. Trieste, Larazzani, TGR Friuli Venezia Giulia. Poca neve e tanto caldo. Ad Arnolstein in Austria fallisce la società che gestisce le piste. A Kranjska Gora in Slovenia chiudono gli impianti. Iniziano a farsi concreti gli effetti del cambiamento climatico sull'economia della montagna. Iniziano a concretizzarsi sull'economia turistica invernale gli effetti del cambiamento climatico in montagna. Arnolstein, a pochi chilometri da Tarvisio, alza bandiera bianca il comprensorio sciistico del Dreilanderrek, molto frequentato in passato dagli sciatori del Friuli Venezia Giulia. Un fallimento della società che gestisce gli impianti dell'angolo delle tre regioni, non per cattiva gestione, ma perché non c'è più neve, non ci sono più le temperature per produrre neve programmata, che costa sempre più. Il problema principale è dato dalla quota di altitudine, non si superano i 1500 metri, troppo poco ormai per garantire, tra neve naturale e artificiale, una stagione in sicurezza per gli sciatori. Il calo di quasi il 60% delle presenze ha dato poi la mazzata finale. Già in passato c'erano state delle difficoltà finanziarie coperte provvisoriamente con i contributi straordinari della regione Carinzia. Ora il sindaco di Arnolstein, Antolisch, sta cercando investitori privati per risollevare la situazione, ma la strada pare molto difficile. Anche la Slovenia da oggi dice stop allo sci alpino. Kranjska Gora chiude anticipatamente la stagione, in verità iniziata a stento con pochissimi impianti aperti da dicembre ad oggi, per mancanza di precipitazioni nevose e alte temperature che non hanno permesso la produzione di neve artificiale. L'unico impianto che resterà aperto è quello del Podgorin, dove nel fine settimana ci saranno due gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nella vicina Tarvisio intanto si continua a sciare su tutte le piste, tanto che molte squadre nazionali hanno scelto il capoluogo della Val Canale per allenarsi in vista dell'appuntamento di sabato e domenica. Arnstein, Kranjskagora e Tarvisio sono pressappoco alla stessa quota di altitudine e non distano più di una decina di chilometri l'una dall'altra. Arnstein, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'abolizione dei controlli temporanei da parte delle autorità slovene al confine con la Croazia per il momento è fuori discussione, poiché il numero degli ingressi irregolari di migranti è aumentato notevolmente negli ultimi due mesi. Lo ha detto ieri a Bruxelles il ministro degli interni sloveno Boštjan Poklukar, come riporta l'agenzia di stampa slovena STA. Nel solo mese di gennaio la polizia slovena ha registrato 3.430 attraversamenti irregolari della frontiera rispetto ai 2.573 dello stesso mese dell'anno scorso. È in crescita dell'1% rispetto al precedente il bilancio di Bofrost Italia per il 2023-2024 a fronte di un fatturato di 300 milioni di euro. Un risultato che ha indotto l'azienda di San Vito al Tagliamento, attiva nella vendita a domicilio di surgelati e gelati, a prevedere tra i prossimi progetti 200 nuove posizioni tra venditori e promotori su base nazionale, in aggiunta a investimenti in logistiche e filiali e alla maggiore attenzione per i fornitori italiani. L'anno commerciale 2023-2024, ha commentato l'amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin, ha visto Bofrost affermarsi nella vendita a domicilio non solo dei prodotti surgelati, nostro settore storico, ma anche dei freschi, che in pochi anni sono arrivati a rappresentare il 10% del nostro fatturato. Vediamo la situazione meteorologica. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulle zone montane. Ecco le temperature alle 11, a Trieste 13 gradi, a Udine e a Pordenone 15, a Gorizia 16,5, a Sappada 7, Piancavallo 8,5, Tarvisio 9, Forni di Sopra 12,5, Tolmezzo 13, sul Lussari e sul Monte Zoncolan 5, a Grado 12,5, a Lignano 14. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per il pomeriggio: aumento progressivo della nuvolosità fino a cielo nuvoloso in serata sulla zona montana e sull'alta pianura, possibili rovesci sparsi, anche temporaleschi, quota neve in serata fino a 1300-1500 metri circa. Venerdì è l'8 marzo, la festa delle donne, l'occasione per evidenziare i tanti ambiti della nostra società in cui occorre ancora camminare in direzione della parità. A Trieste stamattina c'è stata la presentazione di alcune iniziative. L'8 marzo i civici musei di Trieste renderanno omaggio alle donne di tutte le età con l'ingresso gratuito alle mostre permanenti, quindi ingresso libero al Castello di San Giusto, al Museo della Guerra per la Pace, a quello di Storia Naturale, al Revoltella e al Carlo Schmil. Un'iniziativa alla quale hanno aderito anche le altre istituzioni museali in città, peraltro in molti casi dirette da donne, come il Castello di Miramare, il Museo Nazionale dell'Antartide, l'Immaginario Scientifico e il Museo della Comunità Ebraica. Ridotto anche l'ingresso al Cinema The Space nazionale. Per le scuole invece è in programma una giornata di incontri sulle pari opportunità che sarà introdotta dalla storica Elisabetta Vezzosi sul significato dell'8 marzo, ma si parlerà anche del soffitto di cristallo e ci sarà la testimonianza della prima vigilessa di Trieste, Gianna Ellero. Io sono entrata in servizio il 15 ottobre 1978. È stata una bellissima esperienza. All'inizio un po' traumatica, perché ero piena di incertezze, paure, non sapevo cosa andavo incontro e allora non sapevo neanche che ero l'unica e la sola vigilessa. Pensavo che ce fossero altre. E come si rapportavano anche gli automobilisti nei suoi confronti? Curiosità, molta curiosità, perché è la prima, appunto, in divisa. Visibile, non ce n'erano altre, non c'era possibilità di sbaglio, era individuata, era lei, ma non ho avuto problemi. Qualcuno sì, faceva un po' il piaccione, ma senza risultato. L'assessore Maurizio De Blasio. Riteniamo importante coinvolgere i giovani sulle questioni che riguardano la situazione delle donne, la condizione femminile nella nostra società. Il focus è certamente, sono certamente le pari opportunità, ma non ci dimentichiamo che abbiamo da lavorare su una questione più grave, che è quella della violenza. Per questo sugli autobus sarà pubblicizzato il numero antiviolenza 1522. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un defilé di moda con detenute che diventano modelle per un giorno si svolgerà l'8 marzo nella sezione femminile del carcere del Coroneo a Trieste, dove sfileranno i costumi di Silvia Bartole in un evento dal titolo Bellezza, benessere anche in carcere. L'iniziativa è organizzata dai Club Sor Optimis di Trieste, Udine e Pordenone in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trieste. Assemblee studentesche, palestre di democrazia, eppure questi luoghi di confronto e di discussione sono in crisi alla stessa maniera delle forme di partecipazione alla politica, tanto in crisi che, vista la bassissima partecipazione, al Liceo Classico Petrarca di Trieste recentemente gli stessi studenti hanno deciso di annullare l'assemblea d'istituto. Salta l'assemblea d'istituto per il mese di marzo e forse non solo. Al liceo Petrarca di Trieste i rappresentanti hanno deciso di dare un segnale ai propri compagni che non partecipavano mai alle assemblee. 30-40 persone al massimo vengono in un plesso che conta 840 studenti. La questione è finita persino sul giornale dell'istituto con un'edizione speciale. La direttrice Olivia Gambini. Ci sembrava una buona occasione per poter parlare dell'importanza delle assemblee e anche per far nascere un dibattito tra studenti e professori su questo tema. Sul giornale persino un sondaggio dove emerge che il 62% dei ragazzi da inizio anno non ha mai partecipato a un'assemblea, il 59% non partecipa perché preferisce fare altro. Alle assemblee di solito partecipi oppure no? Di solito sì. Però ultimamente effettivamente sono diventate un po' noiose perché si parla solo del fatto che non ci sia partecipazione all'assemblea. Sono andata anche in presenza, però comunque non con tanta costanza perché non c'erano sempre degli argomenti troppo convincenti. Aver cancellato l'assemblea nell'obiettivo di scuotere le coscienze e aprire un dibattito è un segnale di grande responsabilità da parte dei ragazzi, dice la preside Cesira Militello. Innanzitutto è stato individuato il problema, cioè la mancata partecipazione alle assemblee. Costruire un ordine del giorno e avere poi soltanto 30 persone presenti in istituto è oggettivamente un problema e chiederselo però è il primo passo per trovare la soluzione. I docenti sono stati invitati a parlare della questione in classe ed emerge che i ragazzi chiedono una loro maggiore partecipazione. Guido Pesante, docente. Non possiamo pensare che gli insegnanti si sostituiscano ai ragazzi e che li portino per mano fin davanti all'assemblea e poi dentro l'assemblea addirittura. Questo mi pare una richiesta un po' eccessiva nei confronti degli insegnanti, oltretutto una richiesta lesiva dell'autonomia degli studenti. Ma tornando al giornale scolastico, dal sondaggio emerge che i ragazzi non vogliono archiviare lo strumento, ma forse utilizzarlo in modo diverso. Secondo me è una cosa un po' lunga perché bisogna far sì che tutte le persone si rendano effettivamente conto della problematica e bisogna cercare di risolverla, però appunto la mia speranza è che si possa fare questa nuova edizione, si possa raccontare come si è tornati a fare le assemblee, magari come si facevano una volta. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono sempre più frequenti in regione i casi di attacchi di lupi a danno di animali domestici. Abbiamo chiesto a un esperto della Direzione Territoriale e Risorse Agroalimentari e Forestali come valutare la reale pericolosità per l'uomo e le precauzioni per custodire gli allevamenti. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti del lupo nell'alta pianura pordenonese, con 15 episodi segnalati di predazione a carico di animali domestici, verosimilmente attribuibili al predatore. Secondo l'ultimo monitoraggio del Servizio Biodiversità della Regione, in Friuli Venezia Giulia sono presenti almeno 5 branchi e una coppia, arrivati qui sia dagli Appennini sia dai Balcani, con una densità stimata tra 1 e 3 esemplari ogni 100 km quadrati. Umberto Fattori per il Servizio Biodiversità, Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione. C'è un branco che vive quasi esclusivamente in pianura, nell'alta pianura pordenonese, da molti anni. Sicuramente dal punto di vista ecologico la presenza del lupo è un valore aggiunto e può anche riequilibrare la grande presenza di ungulati, però sono collegati dei problemi soprattutto per quanto riguarda le predazioni a carico di allevamenti da reddito. Ed è stato sollevato anche il tema della sicurezza, in alcuni casi di soggetti che tendono ad avvicinarsi troppo ai centri abitati. Quali consigli per una migliore convivenza al netto delle misure sostenute economicamente da specifici canali contributivi regionali? Ci sono tutta una serie di misure di prevenzione come le recinzioni elettrificate, recinzioni meccaniche, cani da guardiania. E questo riguarda la gestione degli animali da reddito. Per quanto invece riguarda la gestione degli animali d'affezione e da compagnia, ovviamente la custodia degli animali, quindi tenere gli animali al guinzaglio, custodirli di notte in ambienti protetti, non lasciare alimenti per animali domestici esposti, in particolare nel corso delle ore notturne, evitare che siano presenti rifiuti organici a cui il lupo può accedere. Il lupo è pericoloso per l'uomo? Ci sono pochissimi casi di aggressione del lupo all'uomo, può essere prevenuta adottando le cautele di cui abbiamo discusso prima, evitando che il lupo si avvicini troppo ai centri abitati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed ora gli spettacoli, un solista dei Berliner Philharmoniker e due specialisti assoluti di musica barocca insieme per mettere in luce il lato più mondano ed elegante del mondo musicale di Johann Sebastian Bach. Ieri sera al Verdi di Trieste un concerto da incorniciare. Quando si dice un supergruppo, Emmanuel Pahud, primo flauto dei Berliner e solista di livello internazionale, Trevor Pinnock al clavicembalo, uno dei pionieri della riscoperta del repertorio barocco con il suo English Concert, e Jonathan Manson, violoncellista scozzese che ha a sua volta fatto la storia della musica antica come solista e in gruppi come l'Orchestra Barocca di Amsterdam. La collaborazione tra i tre dura ormai da decenni. Nel programma proposto alla Società dei Concerti di Trieste, soprattutto le sonate per flauto di Johann Sebastian Bach, opere che mettono insieme la chiarezza del mondo francese, la cantabilità degli italiani e il rigore costruttivo dei tedeschi con una punta di virtuosismo che non guasta mai. Anche per gli esecutori, spiega Pahud incontrando il pubblico prima del concerto, un'emozione sempre nuova. Anche se l'abbiamo già suonata tante volte, c'è sempre qualcosa da scoprire, un'acustica diversa, un rapporto al suono, all'emissione, all'articolazione, a come ci si sente, come il dialogo delle voci. Nel concerto, come si conviene ad un supergruppo, anche spazio a veri e propri assoli. Pahud esegue una sonata di Telemann, Pinnock la fantasia cromatica e fuga di Bach. Jonathan Manson si riserva la gemma più preziosa di questa raccolta di gioielli, la suite in sol maggiore di Bach. E tutto quel che c'è da dire a proposito lo dice lo stesso Pahud. È perfetta. Non so come faccia. Però Trevor è... Io rimaniamo dietro il palco seduti così ad ascoltare e... Trieste, Andrea Vardamiga, TGR Friuli Venezia Giulia. Si intitola tra parentesi La vera storia di un'impensabile liberazione, lo spettacolo dedicato al ricordo dello psichiatra Franco Basaglia nel centenario della nascita. Ponendo in luce la sua professionalità, l'umanità, le fondamentali intuizioni così rivoluzionarie e fondamentali per la cura e la dignità dei malati. Il sipario salirà a Trieste al Politeama Rossetti alle 21 in Sala Bartoli. Sul palco gli autori dello spettacolo, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua e lo psicologo Massimo Cirri, voce della trasmissione di Radio 2 Caterpillar. A lui abbiamo chiesto come è stato impostato lo spettacolo. Proviamo a raccontare il grande cambiamento che Basaglia porta nella psichiatria, nella salute mentale, ma anche più profondo, che porta nel modo che noi umani abbiamo di guardarci gli uni con gli altri, facendo raccontare a Peppe Dell'Acqua, lui, giovane medico appena laureato, che incontra Basaglia e vede un altro modo di fare salute mentale, più vicino alla persona, più vicino alla dignità, più vicino alle cose vere. Qual era il messaggio che volevate trasmettere? Che di un pensiero come quello di Basaglia, critico, abbiamo continuamente bisogno. Lui ha avuto la capacità di pensare una società senza manicomi, in un tempo in cui i manicomi erano un format uguale in tutto il mondo, e noi abbiamo bisogno, credo, come società, di pensare un futuro. Possiamo provare a pensare a una società senza guerra? L'innovazione di Basaglia, secondo te, in questi giorni è a rischio? È sempre a rischio, lui l'aveva previsto, è a rischio, la politica non l'ha capito, le psichiatrie tentano sempre di tornare con i loro paradigmi sempre un po' riduttivi rispetto alla complessità che abbiamo noi umani come mente, come cervello, come sentimenti, quindi questo discorso è sempre a rischio, ha bisogno di essere sempre riproposto, sostenuto, attualizzato, e di Basaglia abbiamo sempre bisogno. Ti conosciamo come personaggio sempre al microfono radiofonico, com'è stare su un palcoscenico teatrale? Non è facile, metti un po' in difficoltà, ma io sono solo l'imbottigliatore del flusso narrativo di Peppe Dell'Acqua. Il regista e attore Elio De Capitani interpreterà Moby Dick alla prova, spettacolo teatrale del regista e drammaturgo statunitense Orson Welles. Il testo, inedito in Italia, propone una riduzione teatrale del romanzo ottocentesco di Melville, in cui si scontrano uomo e natura. Sul palco, con De Capitani, che interpreta il capitano Ahab, una compagine di 10 attori, tra cui il friulano Massimo Somaglino, a Pordenone, al Teatro Verdi, alle 20:30. L'attore Alessio Boni sarà protagonista di Lia, del Gioco degli Dei, spettacolo che riscrive e mette in scena i miti più antichi della poesia occidentale e si riflette nel racconto di guerra di tutte le guerre. Appuntamento a Gorizia, al Teatro Verdi, alle 20:45. La rappresentazione sarà preceduta alle 18 da un approfondimento nel ridotto macedonio a cura dell'Università della Terza Età. Unica data per Hybris di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. In scena uno spettacolo di teatro contemporaneo e di ricerca che attraversa il mondo dell'arte in modo trasversale, passando dal cinema alla letteratura fino all'arte plastica e alla fotografia, e propone un labirinto di personaggi surreali. A Trieste, al Politeama Rossetti, alle 20:30. Il ciclo di appuntamenti dei concerti del Conservatorio Tartini prosegue con l'esibizione di Alessandra Fornasa, finalista del prestigioso premio Abbado, che eseguirà brani di maestri dell'est, tra cui Sergei Prokofiev e Nikolai Kapustin, a Trieste, alle 20:30. Sono le 12:55 minuti e 56 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Mauro Ciccarelli e da Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.